è emerso qualcosa nel corso del dibattimento, oppure semplicemente sono degli disonesti che non pagano le quote, reinvestono questi soldi, fanno concorrenza sleale e la mettono in tasca ai 31.000 allevatori, anche e soprattutto del nord, anche e soprattutto che votano Lega, onesti? Beh, nel corso del dibattimento è emerso che c'erano intercettazioni col Ministero dell'Agricoltura ed è emerso chiaramente che un ministro di questo governo ha commissariato l'AGEA, l'ente presieduto dal dottor Fruscio, perché sta facendo il suo dovere. Questi sono dati. Cioè, questo è emerso anche nel corso del dibattimento? Questo è emerso nel dibattimento, anzi nel dibattimento le difese degli imputati hanno cercato di criminalizzare l'AGEA senza motivare, ma dicendo semplicemente che era un ente ormai squalificato commissariato dal governo. Ma è emerso qualcos'altro su dove vanno sti soldi? Cioè, se li tengono in tasca loro? No, questo non è emerso perché non era oggetto del giudizio. Si è visto semplicemente che una parte di questi denari sono andati investiti in altre attività come caseifici e nelle stesse aziende. Però certamente emergeva una protezione politica, tanto che si è addirittura chiesto la testimonianza del ministro Zaia, questo l'hanno chiesto gli imputati, come per avere un conforto su una certa difficoltà di interpretazione della legge. La qualcosa però non è stata accettata. L'unica cosa che noi abbiamo visto è che tutti questi denari sono andati, oltre a tutti i danni che sono stati riportati dallo Stato, a distorcere anche il mercato medesimo, perché naturalmente questo afflusso di latte illegale ha provocato anche un abbassamento del prezzo in generale.